Sì, è una domanda che non può lasciarci indifferenti. Essa esige una risposta. Nella scrittura, e precisamente nel libro dei Proverbi, l'Eterno pone una domanda alla quale non possiamo sottrarci, e che alla fine delle nostre riflessioni ognuno di noi è chiamato a dare una risposta. Molti uomini proclamano la propria bontà, ma un uomo fedele chi lo troverà? Proverbi 26. Questo proverbio proclama due grandi verità che, come i binari paralleli, fanno correre il treno della nostra vita. Sul primo binario troviamo il giudizio che ha l'uomo di se stesso. Sul secondo vi è la qualità che Dio ricerca nell'uomo. Il giudizio che l'uomo ha di se stesso è vecchio quanto l'uomo. Egli si valuta in base al suo comportamento, e cioè se è bravo, buono o gentile. E di questo se ne vanta. E, naturale, che l'uomo si vanti di ciò che fa perché si rende importante e in mostra di fronte ai suoi simili, e perché pensa di meritare qualcosa nei confronti della sua divinità. Ma non vi è nulla di più falso. Il libro di Giobbe, conosciuto per il personaggio omonimo, racconta la storia di questi quattro amici che vanno a trovare Giobbe sofferente e malcapitato. I primi tre amici cercano in tutti i modi di far comprendere a Giobbe i suoi errori, ma poiché non arrivarono al loro scopo, il quarto personaggio, di nome Elihu, interviene con alcune sagge domande. Ti pare una cosa giusta quando dici sono più giusto di Dio? Infatti hai detto che ti giova, quale utilità avrei del mio peccato? Risponderò io a te e ai tuoi amici assieme a te. Contempla il cielo e osserva, guarda le nuvole, che sono più alte di te. Se pecchi, che effetto ha su di lui? Se moltiplichi i tuoi misfatti, che danno gli arrechi? Se sei giusto, che cosa gli dai o che cosa ricevi dalla tua mano? La tua malvagità può solamente nuocere a un uomo come te, e la tua giustizia può solamente giovare a un figlio d'uomo. Giobbe 35, 1 a 7. Riflessione più che logica. Noi continuiamo a sostenere che la divinità è eterna, immutabile, inavvicinabile, e poi insistiamo nel dire che la nostra giustizia serve per renderci graditi ai suoi occhi. Cosa possiamo dare o togliere alla divinità se è mancante di nulla? Perciò, se esiste una giustizia, essa non può che derivare da Dio che fa misericordia. Diverso, invece, è il giudizio di Dio nei confronti dell'uomo. Egli cerca la fedeltà. Se cercasse delle opere, ogni persona religiosa ne avrebbe da vendere, ma cercando la fedeltà egli cerca una virtù che non è in potere dell'uomo, ma è il risultato dell'opera dello Spirito Santo quando è presente in lui. Inoltre, la fedeltà è una virtù rara, perché si può essere dei virtuosi, dei predicatori del Vangelo, si possono compiere dei miracoli, si può essere uomini di preghiera pur non essendo fedeli. Ecco perché la fedeltà è una virtù rara. Essa non consiste tanto in quello che si fa, ma nella motivazione che spinge a compiere un'azione. Da un certo punto di vista l'argomento della fedeltà rende un po' timorosi, perché si pensa di essere responsabili di tutto, ci si sente chiamati ad ogni invocazione di aiuto. In parte questa è stata la mia esperienza. Più volte avrei voluto entrare nel servizio in certi campi del regno di Dio, ma poi mi resi conto che se ero da una parte non potevo essere dall'altra. Se ero dedito allo studio e alla predicazione non potevo prestare servizio in un'opera sociale. A volte, volendo fare di tutto, si fa tutto male. Anche Gesù ha insegnato che non dobbiamo essere fedeli a tutto, ma limitati alla chiamata. Lo dice in due parabole. Parlando del suo ritorno, disse: ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce, né gli angeli nel cielo né il figlio, ma solo il Padre. State attenti, vegliate e pregate, perché non sapete quando sarà quel momento. È come se un uomo, andando in viaggio, lasciasse la propria casa, dandone l'autorità ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e al portinaio ordinasse di vegliare. Marco 13, 32-34. Il piano di Dio prevede un incarico individuale per ciascuno dei suoi figli. Questo incarico è così importante che lo ha stabilito prima della fondazione del mondo. Così Paolo si è espresso: voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Efesini 2, 10. Dunque, tutti abbiamo un compito diverso, ciascuno un proprio compito, ma il valore del compito è uguale per tutti. A rendere meritevole, sia chi predica, sia chi pulisce le scale, tanto chi svolge il compito di conduttore, come chi pulisce il locale delle riunioni, è solo la fedeltà. Non abbiamo gli stessi doni, la stessa chiamata, ma abbiamo la stessa responsabilità. Questo aspetto dovrebbe portarci a sentirci realizzati in qualsiasi cosa che facciamo per Dio. Ne siamo portati a sentirci qualcuno se facciamo grandi cose, invece davanti a Dio noi siamo importanti se siamo fedeli alla sua chiamata. Non è importante colui che approva se stesso, ma colui è approvato da Dio. Poiché ciascuno di noi ha un suo compito, ne deriva che ciascuno di noi può dare a Dio una gloria che nessun altro può dare. Ciascuno di noi ha un compito per Dio che dal principio della fondazione del mondo è stato assegnato a Lui solo. Questo nobilita ciascuno di noi. Dio vuole che io svolga il compito cui Lui mi ha chiamato, per quanto possa essere piccolo e umile, piuttosto che un grande compito che non mi è stato assegnato da Lui. Il regno di Dio si può costruire solo se svolgo un lavoro che è di mia competenza e non se faccio il lavoro di un altro. Il mio obiettivo è di essere in armonia con tutti quelli che lavorano. Diversamente, anche se svolgo il lavoro più importante, non costruisco ma demolisco. Il Figlio di Dio è stato inserito nel corpo di Cristo, dove, se egli è una mano, non potrà svolgere il lavoro del piede. Se è un orecchio non può svolgere il lavoro della bocca. Nel giorno in cui cesso di svolgere la mia funzione per farne un'altra, non svolgerò nessuna funzione. L'Evangelista Matteo, citando la stessa parabola, aggiunge una sfumatura importante. Inoltre, il regno dei cieli è simile a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti. A un altro 2, a un altro 1, a ciascuno, secondo la sua capacità, e subito partì. Matteo 25, 14-15. Il servizio al quale Dio mi chiama sarà adatto alla mia natura. Dio non chiede al piede di fare l'occhio, perché non è adatto a questo compito. Così Dio non chiederà ad un giovane di rimanere fermo, ma gli chiederà di mettere le sue energie al servizio del regno di Dio. Nello stesso modo Dio non chiederà ad un vecchio di percorrere su e giù i monti per predicare l'Evangelo, ma piuttosto fedeltà alla preghiera e alle buone opere. Servire il Signore è un'azione che deve sprigionare naturalmente secondo le nostre capacità, secondo il nostro compito. La dimensione del compito non è fissata, perché può essere un lavoro complesso o semplice, doloroso o piacevole, ma comunque adatto alla persona. Nella parabola dei talenti, l'uomo nobile diede ai suoi servitori secondo ciò che avevano guadagnato. Dobbiamo riconoscere che la fedeltà è quindi una virtù rara e importante, ed è la prima e insostituibile qualità di ogni valevole ministero. La fedeltà acquista la sua massima espressione e il suo massimo valore nella persona di Gesù. Così si esprime l'autore della lettera agli Ebrei. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Ebrei 12, 1-3. Gesù fu fedele al compito per il quale era stato chiamato. La sua fedeltà non fu un fuoco di paglia come per molti figli di Dio, ma rimase fedele fino alla morte e alla morte della croce. La fedeltà, di qualsiasi compito si tratti, comporta fatica e sacrificio. È facile andare dove si ha il desiderio e far ciò che piace, ma la vera fedeltà fa andare o stare anche dove non si vorrebbe. Rimanere fedeli al coniuge, ad una chiesa, ad un impegno, quando concordano con il nostro punto di vista, non è fedeltà, è solo coerenza. È come amare quelli che sono amabili. Ma la fedeltà inizia come per l'amore, quando istintivamente vorremmo mollare, vorremmo rompere un patto, un impegno preso. Forse il bisogno più grande che abbiamo non è avere delle attività, ma delle mete. E una meta importante è prefiggersi di essere fedeli. Il profeta Geremia ha detto che gli occhi dell'Eterno cercano la fedeltà. Geremia 5, 3. Perciò cercare o ambire alla fedeltà significa cercare ciò che Dio cerca. La parola di Dio ci ordina di considerare come Gesù sopportò le varie afflizioni per non stancarci e venire meno, e cioè per rimanere fedeli. E, molto probabile, se non è una certezza, che la nostra instabilità risieda proprio in questa mancanza di fedeltà. E di questo tipo di fedeltà che tutti noi dovremmo preoccuparci, soprattutto perché questa garantisce le altre. Gli uomini di Dio fedeli non avevano nessuna ricetta speciale per essere tali, essi erano sottoposti alle stesse passioni nostre, Giacomo 5,17, ma cercavano costantemente la faccia di Dio. Davide testimoniò: io ho continuamente posto l'Eterno davanti ai miei occhi, poiché Egli è alla mia destra, io non sarò mai smosso. Salmo 16,8. E di Mosè sta scritto che egli non temette l'ira del re, ma stette saldo perché vedeva colui che è invisibile. Ebrei 11,27. Considerare la vita di Gesù non significa contemplare in modo estatico ciò che egli ha fatto e detto, come se vedessimo il nostro attore preferito in un film, ma comporta un attento esame di verificare come ha sopportato ogni tipo di sofferenza. Il disprezzo, il rigetto, gli scherni, l'opposizione nel campo religioso e quello politico. L'ingiustizia e l'incomprensione da parte dei suoi discepoli e della sua parentela, compresi i fratelli e Maria, sua mamma. Questo tipo di fedeltà ha e avrà un premio da parte di Cristo Gesù che vale la pena rispolverare. Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Matteo 25,23. Novembre 2005 di